Capitolo 10. Il giornale di Joe. New York, novembre. Cara mamma e cara Beth, ho da scrivere addirittura un volume. Ho un mondo di cose da dirvi, anche senza essere una bella dama che viaggi in Europa. Quando perdei di vista quel caro vecchio volto del babbo, mi prese un po' di malinconia e stavo per fare due lacrimucce. Ma venne a distrarmi una signora irlandese che aveva quattro bimbi e tutti più o meno piangevano, e io, per divertimento, appena li vedevo aprir bocca, gettavo loro un biscotto. Ben presto venne fuori il sole. Lo presi come un buon augurio e, rasserenata, anch'io mi godetti il viaggio con tutto il cuore. La signora Kirk mi riceve con tanta bontà che mi sentii subito a casa mia, anche in questa gran pensione piena di gente che non conoscevo. Non avendo altro locale da darmi, mi ha sistemata in un curioso salottino a tetto, ma con la stufa, con una gran tavola e una finestra luminosa, sicché io posso stare qui a scrivere quando voglio. La vista, che è bella, con un campanile in faccia, mi ripaga delle lunghe scale che debbo salire. Un buco, insomma, che però mi è riuscito subito simpatico. La stanza dei bambini, dove io debbo far loro scuola e cucire, è un bel locale, accanto al salottino particolare della signora Kirk. Le due bambine sono carine, mi paiono un tantino viziate, ma si sono affezionate a me appena raccontai loro i sette porcelli cattivi. Credo che riuscirò una istitutrice modello. I pasti li prenderò con le bambine, se non voglio andare alla tavola grande, e per ora preferisco non andarci. Non lo crederete, ma mi ci trovo imbarazzata. Adesso, mia cara, fa conto di essere in casa tua, mi disse la signora col suo tono materno. Io sono occupata da mattina a sera, come puoi ben comprendere, con tutta questa famiglia, ma sarà un bel pensiero che mi leverò quando saprò che le mie bambine sono in buone mani. Le mie stanze saranno sempre aperte per te e la tua cercherò di rendertela più comoda che potrò. Qui in casa troverai alcune persone simpatiche, se ti sentirai d'umore socievole. La sera sarai sempre libera, qualunque inconveniente nasca, ricorri sempre a me e cerca di stare allegra più che puoi. Questo è il campanello per farti portare il tè. E adesso, ciao, devo scappare a cambiarmi la cuffia. E andò via, lasciandomi sola a sistemare il mio nuovo nido. Poco dopo, quando scesi le scale, vidi una cosa che mi piacque. La casa è assai alta, perciò i rami delle scale sono lunghi. Mi ero fermata sul pianerottolo del terzo piano per lasciar passare una ragazza di servizio che saliva faticosamente quando un uomo dall'apparenza curiosa la raggiunse. Le tolse di mano il secchio del carbone e glielo portò su fin dove ero io, deponendolo davanti a una porta. Fatto questo, se ne andò, dicendo con un cenno cortese del capo e con l'accento straniero: "Così fa pene. Fostre piccole spalle troppo ciofani per così tanto peso." Non era carino. Mi piace quando vedo queste cose. Dice il babbo che nelle piccolezze si vede il carattere. La sera ne parlai alla signora Kirk, la quale si mise a ridere. Oh, deve essere il professor Baer, lui ha sempre queste spontaneità. Mi spiegò che il professor Baer è di Berlino, è assai dotto e assai buono, ma sfortunato come i cani in chiesa. Dà lezioni per vivere e mantenere due nipotine orfane che egli fa studiare qui per desiderio di sua sorella, la quale ha sposato un americano. Non è una storia romantica, ma io l'ho trovata interessante e ho saputo con piacere che la signora Kirk gli presta il salotto per le lezioni. Fra questo e la stanza delle bambine c'è una portavetri. Lo voglio osservare, poi vi dirò com'è. Ha quasi 40 anni, sicché non c'è niente di male, mammina, è vero? Preso il tè e fatto un po' di chiasso con le bambine prima di metterle a letto, mi sono attaccata al cestone dei lavori. Ho passato tranquillamente la serata a chiacchierare con la mia nuova amica. Scriverò una specie di lettera giornale e ve la spedirò ogni settimana. Sicché, per ora, buonanotte e arrivederci. Martedì sera, mattinata turbolenta, le bambine si comportavano come sancio e sono stata lì lì per dare una buona scrollatina ad ambedue, quando il mio buon angelo mi ha suggerito l'idea della ginnastica. E con questa le ho stancate fino a che furono ben contente di mettersi a sedere chete chete. Dopo colazione, la cameriera le ha condotte a passeggio e io mi sono messa a cucire come la piccola Mabel piena di volontà. Mentre ringraziavo il cielo per aver imparato a fare bene le asole, la porta del salotto vicino si è aperta e poi richiusa, mentre una voce cominciava a canticchiare: "Kennst du das Land?" Pareva un calabrone. Allora ho fatto una cosa molto sconveniente, lo so, ma la tentazione era troppo forte. Ho sollevato un lembo della tendina davanti ai vetri della porta e ho guardato. Il professore Baer era là a riordinare i suoi libri e ho potuto osservarlo bene. Un tedesco come un altro, piuttosto grosso, capelli castani incolti, barba come un cespuglio, naso di forma buffa, occhi di una dolcezza unica, bellissima voce, potente e insieme dolce, che fra tante voci americane, nasali, stridule e sgraziate, è una carezza per l'orecchio. Abiti spiegazzati, mani grandi e non un tratto bello in tutto il volto, ad eccezione dei denti magnifici. E con tutto ciò mi piaceva perché aveva in complesso una bella testa, biancheria fine, l'aria di un gentiluomo, nonostante due bottoni mancanti e una toppa a una scarpa. Cantando, ma con l'aria serissima, se ne andò alla finestra per voltare verso il sole i bulbi dei giacinti. Poi sorrise e quando si udì bussare alla porta rispose ad alta voce vivamente: «Herein!» Stavo per ritirarmi dal posto di osservazione, ma alla comparsa di una bimba piccina piccina con un librone, rimasi incuriosita. «Voglio zio Baer!» dichiarò la frugolina, lasciando cascare il librone rumoroso e accorrendo verso il professore. «Oh, piccola Tina! Eccolo zio Baer! Vieni a dargli un pacio a zio Baer!» E ridendo la sollevò da terra tanto alta che il suo visetto doveva chinarsi in giù per baciarlo. «Io studiare lezione», soggiunse la piccina seria seria, e il professore la mise al tavolo, aperse il dizionarione portato da lei e le consegnò carta e matita. Ella si mise a scarabocchiare e ogni tanto voltava una pagina. Scorreva col ditino paffuto da capo a fondo, come per trovare una parola, con tanta serietà che per poco io non scoppiai in una risata che avrebbe fatto scoprire la mia presenza. Ritto accanto a lei, il professor Baer le accarezzava i bei capelli con un'aria così paterna da far pensare che fosse davvero una bimba sua, sebbene avesse più il tipo di una piccola francese che di una tedesca. Bussarono ancora alla porta ed entrarono due signorine. Allora mi tolsi dal mio luogo d'osservazione e me ne tornai al lavoro virtuosamente, malgrado il rumore e il chiacchierio della stanza accanto. Una delle due signorine rideva di un riso affettato e professore di qua e professore di là. L'altra pronunciava il tedesco con un accento tale che il signor Baer avrà dovuto fare un grande sforzo per restare serio. Con ambedue la sua pazienza doveva essere messa a ben dura prova. Più di una volta lo udì che diceva forte: «No, non è così, no, non fa, non ha fete fatto attenzione a mia spiegazione». Una volta batté forte sulla tavola, credo col libro, ed esclamò disperato: «Giusto cielo, non fa bene nulla occi!» Mi faceva pietà, poveretto. Quando le due ragazze se ne andarono, volli dare ancora un'occhiata, appena una, per vedere se era ancora vivo. Lo vidi steso all'indietro sulla seggiola, esaurito. Aveva chiuso gli occhi, ma l'orologio batté le due ed egli balzò in piedi, si cacciò in tasca i suoi libri. Forse aveva un'altra lezione. Prese in braccio la piccola Tina, che si era addormentata placidamente sul sofà, e la portò fuori. Che vita, povero professore! La signora Kirk mi domandò se volevo scendere a pranzo alle 5. Sentivo un po' di nostalgia di una casa e dissi di sì, per vedere almeno che genere di persone erano quelle che vivevano sotto lo stesso mio tetto. E alle 5, messami in ordine, cercai di scivolare dentro inosservata dietro la signora Kirk, ma lei è piccola e io sono alta, sicché i miei sforzi per non essere notata non ebbero un gran successo. Mi fece sedere accanto a sé e quando giudicai che mi fosse passato il rossore, presi il coraggio a due mani e mi guardai attorno. La lunga tavola era completamente occupata e tutti molto assorti nell'operazione di pranzare, specie signori uomini che sembravano pagati a cottimo per nutrirsi e filavano via appena finito. C'era il solito campionario: giovanotti molto occupati di sé, giovani coppie di sposi che si occupavano l'uno dell'altra, mamme che si occupavano dei loro bimbi, vecchi signori che si occupavano di politica. Non credo che mi dovrò mischiare molto con questa gente, meno che con una signorina la quale ha l'aria dolce e insieme l'aria di qualcuno. Laggiù, in fondo alla tavola c'era il professore e rispondeva gridando alle domande di un vecchio signore sordo e pieno di curiosità che gli sedeva accanto. Dall'altra parte aveva un francese col quale parlavano di filosofia. Se ci fosse stata Amy, non avrebbe degnato più di uno sguardo il professore, perché, mi duole dirlo, aveva molto appetito e ingurgitava in un modo che avrebbe fatto inorridire Sua Signoria. Io non ci badavo, perché mi piace vedere la gente che mangia di gusto, come dice Anna. E il povero uomo ne deve aver bisogno con quella fatica di far lezione alle teste dure da mane a sera. Dopo pranzo, nel risalire le scale, udii due giovani commensali che si aggiustavano il cappello in testa davanti al grande specchio dell'entrata. Uno diceva sottovoce: «Chi è quel nuovo arrivo?» «Mo' istitutrice, o giù di lì.» «E perché a tavola con noi?» «È amica della padrona.» «Bella testa, ma priva di stile.» «Assolutamente, dammi un fiammifero e andiamo.» Lì per lì mi inquietai, ma poi non ci badai più. Un'istitutrice non è da meno di una segretaria, e io, se non ho lo stile, ho l'intelligenza, cosa che non tutti hanno, a giudicare dalle osservazioni di quei due eleganti giovanotti che se ne andavano cicalando e fumando come ciminiere che funzionano male. Io non posso soffrire la gente volgare. Giovedì. Giornata tranquilla ieri, impiegata a far scuola e a scrivere nella mia stanzetta che è molto accogliente, bene illuminata e riscaldata. Ho raccolto qualche informazione qua e là e mi hanno presentata al professore. Pare che Tina sia figlia della francese che fa la lavatura e la stiratura. Al signor Baer vuole un bene dell'anima e quando è in casa lo segue come un cagnolino. E lui ci gode, è scapolo, ma i bambini li ama assai. Anche Kitty e Minnie Kirk che gli vogliono bene raccontano sempre i soggetti delle commediole che gli inventa per loro. I regali che porta, le fiabe meravigliose che narra, i giovanotti a quanto pare lo burlano. Lo chiamano il vecchio Fritz, Lagerbär, Orsa Maggiore. Quest'ultimo è un gioco di parole sul suo cognome, ma lui ne gode come un ragazzo e prende ogni cosa in buona parte, sicché tutti gli vogliono bene, malgrado le sue maniere originali. C'è una signorina, Miss Norton, ricca, colta e gentile. Oggi a pranzo, perché ci sono tornata, è così divertente veder gente. Ha parlato con me e mi ha invitata a farle visita nella sua camera. Ha dei bei libri e delle stampe, conosce tante persone interessanti e mi pare che mi voglia bene. E io cercherò di piacerle. Voglio entrare anch'io nella buona società, soltanto che la mia non è la stessa buona società di Amy. Ieri sera ero in salotto quando entrò il signor Baer con certi giornali per la signora Kirk. Questa non c'era, ma Minnie, che già è una donnina, fece la presentazione con garbo. Un'amica della mamma, la signorina March. Sicuro, ed è tanto cara, e noi le vogliamo un mondo di bene, aggiunse Kitty, che è un po' enfant terrible. Ci inchinammo ambedue, ci mettemmo a ridere per il contrasto buffo tra la presentazione corretta e l'aggiunta confidenziale. Sicuro, sento che queste pirichine vi fanno arrabbiare, Miss March. Se lo fanno ancora, chiamatemi e ferrò. E le minacciava con un volto truce che le faceva scoppiare dal ridere. Gli promisi che sarei ricorsa al suo aiuto ed egli se ne andò. Ma pare che io sia destinata a vederlo molto perché oggi nell'uscire, passando davanti alla sua porta, inavvertitamente vi battei l'ombrello. La porta si spalancò ed apparve lui in veste da camera, con una calza azzurra infilata in una mano e un ago nell'altra. Non aveva affatto l'aria di vergognarsi, perché quando gli ebbi chiesto scusa e facevo per andarmene, agitò, come per dire che non importava nulla, la mano calzata di azzurro e disse forte, sorridendo: «Affette una bella giornata per andare a passeggio. Bon voyage, mademoiselle!» Per tutte le scale mi veniva da ridere. Mi faceva anche un po' compassione, poveretto, doversi rammendare la biancheria da sé. In Germania ci sono anche ricamatori di sesso maschile, lo so, ma rammendar le calze è un'altra cosa, molto meno grazioso. Sabato. Niente è successo che meriti di scriverne, eccetto una visita a Miss Norton, che ha la camera piena di cose belle ed è molto simpatica. Mi ha fatto vedere tutti i suoi tesori e mi ha chiesto se voglio andare qualche volta con lei alle conferenze e ai concerti, come compagna, se mi piacciono. Mi ha presentato la cosa come un favore che le farei, ma sono certa che la signora Kirk le ha parlato di noi e il suo invito È per fare a me il favore. Io sono orgogliosa come Lucifero, ma certe gentilezze e da certe persone non mi pesano. Ho accettato con riconoscenza. Tornando nella stanza delle bambine, ho sentito un tale baccano nel salotto che sono andata a vedere dalla porta che era aperta. Il signor Baer era carponi sul tappeto, con Tina a cavalcioni, e Kitty lo conduceva per la cavezza, che era la corda per saltare. Minnie imbeccava coi biscotti due bambini più piccoli che saltavano e strillavano entro un recinto fatto con le seggiole. È il serraglio, spiegò Kitty. Questo è l'Eunfante mio, aggiunse Tina tenendo il professore per i capelli. Il sabato dopo mezzogiorno la mamma ci lascia fare sempre quello che vogliamo quando vengono Franz ed Emil. È vero, Mr. Baer? Chiese Minnie. L'Eunfante si era messo a sedere e assicurava con gran serietà. Proprio così. Se facciamo troppo chiasso, voi ci farete scht e noi cercheremo di moderarci. Glielo promisi, ma nell'andar via lasciai la porta aperta. Mi divertivo quanto loro. Non avevo mai visto giocare con tanto gusto. Fecero a mosca cieca, ai soldati, poi ballarono e cantarono, e quando cominciò a fare scuro si riunirono tutti sul sofà. E il professore si mise a raccontare certe fiabe deliziose di cicogne in cima ai camini e di coboldi che scendevano a cavallo sui fiocchi della neve. Vorrei vedere anche da noi la gente che sa essere semplice e naturale come in Germania. Non ho ragione. Sto scrivendo con tanto gusto che non la smetterei più di raccontare se non fosse una considerazione di economia. Adopero questa carta sottile e scrivo minuto, ma tremo se penso quanti francobolli ci vorranno. Vi prego di mandarmi le lettere di Emi. La mia cronaca di Fatterelli sfigurerà accanto alle grandi cose che certo avrà da raccontare lei, ma io so che a voi interesserà ugualmente. E Teddy è tanto immerso nello studio da non trovare il tempo per scrivere agli amici? Occupati di lui invece mia, Beth, e raccontami tutto quello che c'è da raccontare dei bambini. Un monte di baci a tutti, Joe. PS. Rileggendo la lettera mi accorgo che parlo molto di Baer, ma la gente originale mi ha sempre interessato e proprio non avevo altri argomenti. Vi abbraccio. Dicembre. Carissime, siccome so che scriverò di mille cose, così come capita, queste pagine le dedico soprattutto a Beth, che probabilmente si divertirà e si farà un'idea di come va la vita qui. Tranquilla, ma divertente. Potete rallegrarvi con me. Dopo le mie fatiche ercule, ercolanensi, direbbe Amy, intorno alle pianticelle affidate alle mie cure, le mie giovani idee cominciano a mettere i primi boccioli e i teneri ramoscelli a prendere la piega che voglio io. Non è interessante come sarebbe con Tina e gli altri piccoli, ma io faccio coscienziosamente il mio dovere e mi vogliono bene. Franz ed Emil sono due ragazzetti vivaci, proprio come piacciono a me. Quel loro misto di tedesco e di americano li rende continuamente effervescenti. I personaggi del sabato sono turbolenti, tanto in casa che se si esce, come si fa se il tempo è bello. Allora pare una camerata di collegio, col professore e la sottoscritta nel ruolo di prefetti. È divertentissimo. Siamo buoni amici ormai. Ho cominciato a prendere lezioni, non ho potuto farne a meno. E la cosa è venuta in una maniera così strana che devo raccontarvela. Per narrarvi tutto dal principio, un giorno, passando davanti alla porta del signor Baer, che era aperta, mi sentii chiamare dalla signora Kirk, la quale stava dentro a rovistare. Hai mai visto un'insalata simile? Fammi un favore, aiutami a mettere a posto questi libri. Ho smosso tutto perché volevo scoprire cosa ne ha fatto dei sei fazzoletti nuovi che gli ho dato io non molti giorni fa. Mentre le davo una mano, osservavo d'attorno. Insalata era, non c'è che dire, libri e carte da tutte le parti. Una pipa di schiuma forse rotta, un vecchio flauto abbandonato sul caminetto, un uccellino spennacchiato e scodato che cinguettava nel vano di una finestra, mentre nell'altro vano si ammirava una cassetta con alcuni topi bianchi. E poi barchette non finite, pezzi di spago fra i manoscritti, o un paio di piccoli stivaletti infangati ad asciugare davanti al fuoco. Da ogni parte tracce di ragazzi, di quei fanciulli di cui Baer è lo schiavo volontario. Dopo lungo rovistare, per i fazzoletti se ne scopersero tre. Uno era disteso sopra la gabbia dell'uccellino, un altro irriconoscibile per le macchie d'inchiostro e uno mezzo bruciato perché aveva servito per afferrare qualche manico che scottava. Che uomo! esclamava la signora Kirk, ma senza arrabbiarsi. Mentre cacciava i fazzoletti ormai inservibili nel sacchetto dei cenci, mi pare di vedere che gli altri avranno servito a far vele, o a fasciare qualche dito tagliato, o a far la coda a un aquilone. Che orrore! Ma non riesco a rimproverarlo, così nelle nuvole, così buono. Si lascia mettere i piedi addosso con le scarpe infangate. Siamo d'accordo che io dovrei provvedere alla lavatura e alle riparazioni, ma non si ricorda mai di mettere fuori la roba che ha bisogno di essere riordinata. Io poi dimentico di cercarla e così certe volte si arriva a un punto da far disperare. Lasciatele fare a me le riparazioni, le dissi. Per me è una cosa da nulla e lui non lo saprà. Mi piacerebbe tanto, cioè lui è tanto gentile con me, mi imposta le lettere, mi presta i libri. E così gli ho messo in ordine la sua roba. Ha 2 paia di calze, ho rifatto il calcagno, perché coi rammendi, chiamiamoli così, fatti da lui erano inservibili. Speravo che non si sarebbe accorto di nulla, ma la settimana scorsa mi ha colta sul fatto. A sentirlo quando insegna è così interessante e anche divertente che mi aveva messo una gran voglia di studiare il tedesco. Tina entra ed esce e dimentica di chiudere la porta, sicché io dalla mia cameretta stavo in ascolto. Quel giorno ero appunto a sedere presso la mia porta e terminavo l'ultimo paio di calze sue. Cercavo di capire ciò che aveva detto poco prima ad un allievo che doveva avere la testa dura quanto la mia. Se n'era già andato l'allievo. E regnava un gran silenzio, tanto che credetti fosse andato via anche il professore. Sicché cominciai a ripetere la coniugazione di un verbo dondolandomi sulla sedia. Mi interruppe una specie di tossetta simulata. Alzai gli occhi. Davanti a me il signor Baer se la rideva in silenzio e faceva segno a Tina che non facesse rumore. Ecco, fece lui. Io lo guardavo con tanto d'occhi. Voi osservate me, io osservo voi. Niente di male. Ma ditemi, davvero vi piacerebbe studiare il tedesco? Sì, cioè, no. Arrossivo, mi impaperavo. Insomma, sì, mi piacerebbe, ma voi avete troppo da fare. Io sarei un'allieva un po' dura di testa. Oh no, il tempo si trova sempre e la testa non lotite nemmeno. Allora siamo d'accordo. La sera vi farò una piccola lezione con grande piacere, perché fate te, Miss March, io ho un tepito da pagarvi. E indicava la sua calza che io avevo in mano. Sicuro, brave signore, gentili, hanno detto, quel vecchio stupido non si accorgerà quando gli alluci e i calcagni non gli spunteranno più dai buchi. Crederà che i botoni mancanti rispuntano come i fiori, che le fettucce crescono da sé come i capelli. Ah, ma gli occhi li ho anch'io. Io ho fatto tante cose. E ho un cuore anche, e sento la riconoscenza. Via, una piccola lezione ogni tanto, se no non permetto più a voi di fare la piccola fatta benefica con mia piancheria. Capii che era impossibile rifiutare, ed era un'occasione proprio magnifica. Ci mettemmo d'accordo e si cominciò. Ma alla quarta lezione mi trovai in un ginepraio di difficoltà grammaticali. Il professore fu pazientissimo, ma che tormento doveva essere per lui. Ogni tanto mi guardava con una certa espressione buona, sì, ma disperata. E io non sapevo se mettermi a ridere o a piangere. E feci ambedue le cose. Quando mi sentì che tiravo il fiato dal naso per soffocare un singhiozzo di scoraggiamento, di disperazione, sbatté la grammatica per terra ed uscì. Che vergogna in quel momento. Se mi avesse mandata a spasso non gli avrei saputo dare torto. Mentre raccoglievo in fretta le mie carte per correre su in camera mia e dirmi quel che meritavo davanti allo specchio, eccotelo che ritorna tutto allegro, sereno, raggiante, come se io mi fossi coperta di gloria. Adesso proferemo altro metodo. Leggeremo insieme questi piccoli Märchen, raccontini e quella brutta grammatica fia, là in un cantone in castigo cattiva che a voi ha fatto male. Parlava con tanta gentilezza, mi metteva sotto gli occhi il volume aperto delle fiabe di Andersen con tanta insistenza persuasiva che io mi vergognai anche di più e mi gettai sul nuovo lavoro con una volontà disperata che doveva farlo ridere dentro di sé. Così, a poco vinsi la mia vergogna e tirai innanzi con un impeto. Non so come esprimermi altrimenti. con un impeto da travolgere ogni ostacolo, incespicando nelle parole lunghe, pronunciando come viene viene, insomma, facendo l'estremo di mia possa. In fondo alla prima pagina mi fermai, ripresi fiato e lui mi batté le mani con entusiasmo. Molto bene, egregiamente. Ora leggerò io. Fate attenzione bene a mia pronuncia. E lesse lui, alzando la bella voce sonora, staccando le sillabe con un gusto, un'enfasi nel tono e nel gesto che mi fece venire da ridere. Per fortuna il racconto era il soldatino di piombo, che è da ridere, e così mi potei sfogare, ma in realtà non avevo capito mica troppo bene. Da quel momento ogni cosa va meglio. Adesso leggo discretamente. Questo è il modo di studiare che ci vuole per me. Mi accorgo che la grammatica me la fa mandar giù ugualmente il professore, ma come una pillola amara avvolta nello zucchero. Io mi ci diverto. E lui non pare stanco ancora. Quanto è buono, eh? Per Natale gli voglio fare un regalo, perché denaro non oso offrirgliene. Consigliami tu qualcosa, mammina, qualche oggetto carino. Mi fa piacere che Lori sia contento ai lavori, che abbia smesso di fumare e di portare la testa rapata. La mamma vedrà che Beth lo sa guidare meglio di me. Non ne sono gelosa, sai, Beth. Fa pure del tuo meglio. Solamente non me lo far diventare proprio un santo. Temo che non mi piacerebbe più senza una punta di umana canaglieria. Fagli leggere qualche parte delle mie lettere. Io di tempo per scrivere non ne ho molto, ma quello che gli farai leggere tu servirà ugualmente. Vedo nell'ultima vostra che la salute va meglio. Si è ringraziato il cielo. Gennaio. Carissimi, i migliori auguri per l'anno nuovo a tutti quanti, compresi naturalmente il signor Lawrence e un giovanotto che si chiama Teddy. Non so dirvi quanto piacere mi ha fatto il pacco di Natale, e forse è proprio perché non l'ho ricevuto che la sera, quando già avevo lasciato ogni speranza. La mattina era arrivata la lettera, ma non parlava del pacco. Volevate che la sorpresa fosse completa, eh? Ma intanto era stata una delusione, perché qualcosa mi diceva sempre che non mi avreste dimenticata, e invece ero tanto avvilita, sola sola quassù nella mia stanzetta. Quando mi portarono il grosso involto infangato e malridotto, lo abbracciai addirittura e feci un giro di valzer tenendomelo stretto stretto al cuore. Come sapeva di casa! Me lo sono aperto sedendo per terra a leggere, a frugare, ad assaggiare, a ridere e a piangere. Pazza era, vi dico! C'erano proprio tutte le cose che desideravo e più buone così, fatte da voi, che se le aveste comprate. Il nuovo salvamacchie di Beth per l'inchiostro è un capolavoro. La scatola dei biscotti di Anna la conserverò come un tesoro. Le belle maglie di lana che mi hai mandato tu le metterò, non dubitare, mammina, e avrò cura di leggere tutti i libri segnati dal babbo. Un milione di grazie a tutti. A proposito di libri, io sto diventando ricca. Per l'anno nuovo il signor Byer mi ha regalato un bellissimo Shakespeare, un'edizione che egli apprezza molto e che era oggetto della mia ammirazione fin da quando stava fra i suoi libri al posto d'onore con la Bibbia di Lutero. Platone, Omero e Milton. Immaginatevi la mia sorpresa quando lo tolse dallo scaffale, senza la sopracoperta e me lo porse, aperto col mio nome scritto da lui e sotto dono del mio amico Friedrich Bayer. E mi ha detto: Voi dite sempre che desiderate tanto una biblioteca. Eccovela. Fra i due cartoncini di questa leccatura ci sono molti libri riuniti in uno solo. Leggetelo bene e vi sarà di grande ciofamento. Il modo come sono studiati qui dentro i caratteri umani vi insegnerà a comprenderli sempre meglio nella vita e a renderli quanto scrivete. Lo ringraziai quanto potevo e meglio che potevo, e adesso dico la mia libreria come se possedessi 100 libri. Finora non lo sapevo quante cose ci sono in Shakespeare. È vero che non c'era vicino a me un Baer a spiegarmele. A proposito del suo nome, non ridete. Non va pronunciato come il nostro bear, orso, o il nostro beer, birra, come viene naturale a noi, ma è una via di mezzo, un suono che ce l'hanno solo i tedeschi. Mi fa piacere che siate contenti di come vi parlo del mio amico e spero che un giorno lo conoscerete. Alla mamma piacerebbe per il suo bel cuore e al babbo per la sua mente. Io lo ammiro per ambedue e mi chiamo fortunata di averlo per amico. Non avendo molto denaro e non sapendo cosa gli poteva piacere di più, ho acquistato parecchie cosette e le ho messe qua e là nella camera per dargli parecchie piccole sorprese. Tutte cose utili o carine o da ridere. un piattino per posare piccoli oggetti, portafiori per il fiore unico o per la fronda verde che non manca mai nella camera di Baer. Dice che serve per mantenere fresco l'ambiente. Un cuscino per tenere in mano il soffietto di ferro affinché non bruci i suoi fazzoletti. I mouchoir, direbbe Amy. Per farglielo ho copiato l'invenzione di Beth, quella farfallona con l'addome grosso, le ali gialle e nere, le antenne di treccia rigida e gli occhi di vetro colorato. Questo oggetto lo ha colpito subito. Egli lo ha posato sul caminetto come un ninnolo, sicché in fondo non ha raggiunto lo scopo. Lui, poi così povero, non ha dimenticato nessuno in casa, nemmeno le persone di servizio e i bambini piccoli. E non c'è stato nessuno, dalla lavandaia francese fino a Miss Norton, che abbia dimenticato lui. Qui, per Capodanno, hanno combinato una mascherata ed è riuscita molto divertente. Io non volevo scendere perché non ho il costume, ma all'ultimo momento la signora Kirk si ricordò che aveva una vecchia veste di broccato e Miss Norton mi prestò merletti e piume e così mi potei combinare un costume da Mr. Malaprop e feci la mia entrata in maschera. Non mi hanno riconosciuta perché avevo alterato la voce e a nessuno poteva venire in testa che la superba e taciturna Miss March, perché mi credono dura e fredda e tale sembra che osserva poco, è capace di ballare, di mettersi un costume di fantasia e di tenere discorsi solenni e spropositati. Ah, mi sono divertita un mondo, soprattutto alle facce che fecero quando ci togliemmo le maschere. Ho sentito uno di quei soliti giovanotti dire che io ero attrice e che lui lo sapeva, anzi era quasi sicuro di avermi vista in un teatro di second'ordine. Questo effetto lo apprezzerà molto, Meg. Il signor Baer era in costume da Nick Bottom. Tina era Titania e lui la portava in braccio. Una minuscola fata perfetta. A vederli ballare era, direbbe Teddy, un paesaggio. E così ho passato un bel capodanno, tutto sommato. E facendo l'esame di coscienza prima di addormentarmi, ho avuto una certa impressione che qualche progresso l'ho compiuto, malgrado i non pochi insuccessi. Ora non mi faccio mai vedere seccata, lavoro con uno scopo e mi interesso del prossimo più che non facessi una volta, e questo è confortante. Vi abbraccio a tutti, la vostra Jo che vi ama tanto.